Quanta gente è cascata? L'altro giorno avete visto quell'ubriaca che è andata a finire a 30 km dal posto dove doveva essere per i boschi. Quindi qualunque ipotesi è possibile. È chiaro che, prendiamo il caso di quello di Brescia, il nipote che ha ammazzato gli zii, se si comincia a trovare, ecco, vediamo quello, mettiamo che non avessero trovato i cadaveri, si comincia a trovare che ha comprato le forbici e i forbicioni per farli a pezzi, si trovano le macchie di sangue in casa, si trovano dei movimenti che non spiega, si trovano che è stato in una zona di campagna dove non aveva nessun motivo di andare. C'è una serie di circostanze che lui non riesce a spiegare logicamente e che logicamente indicano solo, tutti nella stessa direzione, verso un fatto delittuoso, si può arrivare a ritenere il soggetto colpevole anche in mancanza del cadavere. Quindi assolutamente il cadavere non è necessario, è chiaro che complica la mancanza del cadavere, complica talmente le cose che può essere veramente difficile dimostrare la colpevolezza. Nel caso qui della signora Prunter, effettivamente mancava, vengono delle supposizioni, non c'erano neanche degli indizi, vengono solo delle supposizioni. Perché un indizio deve essere abbastanza pesante, abbastanza chiaro, un elemento di un tale peso che già da solo, pur non, per comune esperienza, dimostra la responsabilità di una persona. Ma il sospetto, l'ipotesi, non risponde più al telefono. Vabbè, io non ce l'ho il telefonino, non potrei mai rispondere. Chi ha detto che si è portato via il telefonino? Chi ha detto che è andato in un paese dove, poteva usare, dove il telefonino poteva essere usato? Dice non ha usato i soldi. Se l'hanno rapita, mettiamo che l'abbiano, come puoi escludere che l'abbiano rapita? E quindi che l'abbia ucciso un altro. Come, non si può escludere nulla dall'ipotesi. Tu hai detto incidente, responsabilità di altre, fuga, tutte le varie ipotesi, tratta delle bianche, non so che faccia ci avesse, ma ci mettiamo anche questa, non possiamo escludere nessuna Non si poteva ipotesi. E escludere allora, neanche che in carretta fossero vivi, però allora anche i Doneganì, allora vale lo stesso discorso. Cioè ma non trovi infatti i in corpi. carretta, no, infatti in carretta l'hanno condannato perché, a parte la Se confessione, non perché trovavi i corpi in scarica, hanno trovato le macchie di sangue, si sono attaccati, si sono dovuti attaccare a quello. E quindi qualche elemento ci vuole, perché se no tutti i mariti sono sospettabili. Sarebbe esagerato effettivamente condannarli tutti, ce n'è qualcuno che è anche bravo, come confermano le signore. Questa questione introduce poi il tema di cui volevo trattare legato al terzo caso, cioè l'influenza sempre più forte della scienza nelle indagini. In effetti, anch'io ritengo che mentre gli elementi psicologici sono molto forti dal punto di vista della discussione, cioè del dibattito, della maniera con cui ciascuno di noi si pone nei confronti dei grandi gialli, e quindi perché il marito, cioè un elemento, perché il marito è andato lo stesso e è partito in ferie con l'amante e non ha neanche denunciato la scomparsa. Questo è un elemento che nell'immaginario comune, soprattutto delle donne più che degli uomini, è un indizio di colpevolezza fortissimo dal punto di vista psicologico. Però certo che se seguiamo il criterio tecnico, questo si presta a tutta una serie di altre controdeduzioni, quindi da solo non basta. Dal punto di vista tecnico, magari molto meno affascinante, ma molto più probante, perché ormai alla scienza si attribuisce, diciamo, un potere divinatorio anche quando non, poi la scienza anche sbaglia anche nei processi, però diciamo che se si fosse trovato il DNA della signora in un posto sospetto, tipo la cantina dove potrebbe essere stata uccisa, certo che questa, sempre nell'immaginario collettivo, però con molto più fondamento, sarebbe stato ritenuto un elemento molto forte a prescindere dalla mancanza del corpo. Perché ormai, e questo è l'altro elemento, la maggior parte dei casi di cronaca si risolvono con le squadre speciali, con i RIS, con la tecnica, con l'Uminol, con l'analisi delle macchie di sangue, del blood pattern, eccetera. E da questo punto di vista è cambiato tantissimo, anche se forse non è cambiato moltissimo, diciamo, nella testa degli investigatori di base, perché c'è sempre questa idea rambistica che arrivano gli esperti, come nei film, che poi sono quelli dell'FBI, che sono i cretini, perché arrivano loro e in realtà invece di risolvere tutto, poi insomma, praticamente diciamo che c'è questa idea rambistica delle squadre speciali, mentre dovrebbe esserci una specializzazione di base, perché il problema è che i danni li fanno quelli che arrivano per primi, non quelli che arrivano dopo 2 giorni. Cioè, è la puntata soldato o il poliziotto che spegne la cicca vicino al cadavere e poi fanno le analisi sull'ultima sigaretta dell'assassino. Cioè, sono queste le cose che succedono, non dico normalmente, però sono successe, insomma, senza andare tanto lontane anche da noi. Allora, il problema vero è creare una cultura investigativa di base che faccia sì che quelli che arrivano per primi sul posto sappiano isolare la scena. E allora sì che dopo la squadra arriva e con un capello trova l'assassino, ma se poi il capello può essere della tipa dell'ambulanza, succedono quei disastri come a Cogne in cui alla fine nessuno capisce più niente perché è una barzelletta, perché sentite 87 perizie sullo stivale, sul pigiamino, su questo, su quello, e poi alla fine veramente non si capisce più nulla perché tutto è il contrario di tutto. Cioè, è paradossale il contrasto fra la presunta scientificità di queste cose e poi la banalità di quello che succede nella pratica. Perché c'è un totale difetto di impostazione del problema. Il giudice ha bisogno di certezze e la scienza ha valore in quanto gli dia una certezza. Perché il DNA è importante? Perché per quanto ne sappiamo adesso, dà delle certezze, per cui una prova certa. Purtroppo, siccome funziona il DNA, ci si è convinti che qualunque persona si dà l'etichetta di scienziato dia risposte di certezza. Invece, tutte quelle perizie che hanno fatto a Cogne, appunto sulle scarpe, sulle macchie, queste cose qui, sono soltanto delle opinioni dei periti, opinioni altamente discutibili, perché di certezza non ne danno nessuna. Cioè, quello che hanno chiamato per studiare le macchie sul muro, tra l'altro era un esperto tedesco che ne sapeva meno di quelli italiani, perché non ne ha mai fatte neanche lui, e si sono dimenticati che in America c'erano degli esperti veramente solo delle macchie. Forse se avessero chiamato quelli, per esempio, era meglio. Però anche il massimo esperto di macchie può soltanto dare la sua opinione di esperto, non può dare una certezza. Tornando al caso della donna scomparsa, ricordiamoci che è già difficile condannare uno quando c'è il cadavere, figurarsi quando manca il cadavere, ecco, diventa praticamente impossibile. E non bastano poi le opinioni dei periti, ci vogliono dei periti che diano delle certezze. E certezze sono pochissime, sono pochissime, e sbagliano, può sbagliare il perito medico, può sbagliare, anzi sbaglia moltissimo il perito balistico. Vi assicuro io che se uno facesse, se si rivedessero, si facessero rivedere le perizie degli ultimi 20 anni, ci sarebbe un vai e vieni dalle carceri impressionante, di gente assolta che entra, di gente innocente che esce, perché non sono metodiche che possono dare certezze. E questo è il problema. Per cui molte volte, se si usasse l'intelligenza, più l'intelligenza e un po' meno la scienza, si otterrebbero forse la pseudoscienza, si otterrebbero dei risultati migliori. Diciamo che questo rientra un po' ritorniamo all'inizio, cioè la scienza è molto rassicurante, soprattutto per l'opinione pubblica, che si trova poi a dividersi innocentista o incolpevolista nei grossi casi. Sembra quasi che la discriminante sia, e probabilmente lo è, però appunto con quelle premesse, la discriminante è quella. Una volta non c'era, per cui era più facile, più difficile farsi una propria convinzione. Adesso si è, in un certo senso, si è blindati. Ha visto il bambino 2 medici a distanza di pochi minuti, e per uno era morto, per l'altro era vivo. No? Sì, sì. Erano due, tra virgolette, per soggetti nell'area della scienza. Cioè, adesso sarebbe sbagliato anche demonizzare dall'altra, perché la scienza ha fatto dei progressi incredibili. Certo che appunto l'importante è avere sempre quella sana dose di scetticismo che dovrebbe accompagnare qualunque affermazione di sicurezza assoluta. Il delitto Montebugnoli, se fosse avvenuto oggi dal punto di vista della scienza. Il delitto Montebugnoli è un giallo incredibile. Secondo me è il caso di cronaca nera più misterioso avvenuto in Alto Adige dal dopoguerra ad oggi. Contende, diciamo, la palma della sua drammaticità con l'altro caso, che è quello della perpetua di Don Steinkasserer, che sono più o meno dello stesso periodo, cioè 73 uno e 69 l'altro. Forse il reo c'era, però. Lì, sì, diciamo che quello è però una casistica, cioè lì hanno fatto 80.000 processi, lui è colpevole o lui è innocente, col grandissimo dubbio del se lui è innocente cosa è successo. E quindi la teoria de excludendum, che spesso è un disastro delle indagini, perché ad esempio io sostengo che Bergamo non le ha uccise tutte e cinque, però siccome era lì, era comodo, c'era una serie di indizi, tutto sommato andava bene. Però estrapolati i singoli casi, date le 3 confessioni con elementi molto forti, se gli altri 2 fossero stati presi singolarmente in un contesto anche emotivo e di, diciamo, di di contesto ambientale molto forte. Se fossero stati analizzati singolarmente, io non sono così convinto che sarebbero state giudicate le prove sufficienti. Ovviamente uno mi può anche rispondere, vabbè, bella forza, è chiaro che è l'insieme, analizzarli singolarmente è un'altra cosa, però non sono così convinto perché, ad esempio, il dottore Garter, che è un fior fiore di specialista, ha sostenuto nella perizia comparativa, diciamo, del modus operandi di queste cinque vittime, dalla Marcella, cioè la ragazza di 15 anni, fino all'ultima, sostanzialmente che, pur essendoci diversi elementi, di differenza, c'erano una serie di elementi comuni. Ad esempio, uno degli elementi comuni forti era la ripetizione di coltellate mai nelle zone intime all'altezza del bacino, e quindi la firma dell'assassino è uno degli elementi più forti, e questo psicologicamente gioca molto, però io sono sicuro che non sarebbe difficile dimostrare che i tre quarti dei serial killer che uccidono donne uccidono con questa dinamica, cioè con l'overkilling, cioè con una serie di coltellate inutili, nel senso inutili ai fini dell'azione criminale, e che quasi nessun criminale colpisce le parti diverse. E quindi, insomma, anche quello è da discutere. Il delitto Montebugno, li dicevo, 1969, Francesca Montebugno, di 22 anni, viene uccisa in una maniera atroce nello studio del notaio Giatti, che si trovava, parlo al presente storico, in via Duca d'Aosta. Caso molto complicato, indiziario, con tutta una serie di sospetti. La forza drammatica di questo caso è quella che, avendo conoscenza della sua complessità, cioè conoscendo bene tutti gli elementi, comunque la Sigiri c'è qualcosa che non torna. La forza dei grandi casi indiziari è questa, che uno si può fare qualunque convinzione, però per ogni corollario di elementi d'accusa poi c'è sempre qualcosa che non torna. Cioè dici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va bene, perfetto, però è questo, e c'è sempre qualcosa che scardina la teoria. E qui qualunque teoria si faccia ha delle controindicazioni, nel senso che c'è qualcosa che non convince. E la drammaticità di questo caso era l'assoluta eccezionalità per Bolzano, perché la Bolzano del 69 viveva di furtarelli, di piccole cose, e questo brutale assassinio di questa ragazza nello studio di noti professionisti aveva proprio tutti gli elementi, quasi fosse stato costruito a tavolino Il giallo. per diventare un autentico giallo. E, è vero quello che dice il dottor Mori, che l'innamoramento della tesi spesso fa molti danni, no? Nel senso che adesso c'è l'idea, che poi in realtà non è largamente diffusa nella pratica, che anche la difesa possa fare le indagini, no? Cioè è stato stabilito proprio il principio giuridico, che insomma una volta c'era, quando il dottor Mori era giudice istruttore, l'indagine faceva l'accusa, gli altri si difendevano. Adesso le indagini le fa anche la difesa, però insomma è una questione di cultura, quindi ancora non è che sia così sviluppata. L'idea di fondo è quella che l'innamoramento della tesi, in questo caso vennero presi due balordi torchiati, uno confessione extragiudiziaria, cotto a fuoco lento per 3 giorni, poi non c'entravano nulla, però è stato fatto un processo perché comunque c'erano degli elementi strani, e tutto questo ha portato via tutta una serie di mesi, mesi nei quali l'unica speranza era, e purtroppo è ancora adesso, quella della dicotomia concorrenziale tra polizia e carabinieri, cioè quando la polizia trova un assassino, i carabinieri fanno di tutto per trovarne un altro e viceversa. In questo caso, siccome la brillante operazione che aveva portato all'arresto dei due che non c'entravano niente era stata fatta dai carabinieri, la polizia comunque ha continuato a indagare perché cercava una verità che fosse diversa. In realtà, quando c'è l'innamoramento della tesi, cioè quando sostanzialmente ogni elemento viene letto rispetto alla propria teoria, quindi non è che si parte dicendo ma vediamo un po' cosa è successo, si stabilisce che l'assassino è il marito e qualunque elemento serve per dire ah, ecco, vedi che. E gli elementi che non convincono diventano secondari, perché diventano cose che tutto sommato non coinvolgono il quadro generale. Allora, se questo è il sistema, poi succede che è difficilissimo tornare indietro, no? Perché avendo stabilito la teoria a priori, poi se arriva qualcuno e ti dice no, ma hai mai ragionato sul fatto che potesse essere il cugino? Adesso diciamo c'è una cultura che dovrebbe partire dall'idea di, vediamo questo, l'idea dei telefilm, dei film, cioè vediamo questo ampio spettro di potenziali colpevoli e cerchiamo di capire lì cosa è successo. A suo tempo vennero trovati degli elementi nel caso Montebugnoli che adesso probabilmente avrebbero anche potuto portare alla soluzione del caso, perché ad esempio c'erano delle macchie di sangue molto evidenti sullo stipite della porta dell'antibagno. Adesso io forse qui andiamo sul complicato. Il fratello del notaio Giatti, il professor Giatti, aveva detto di essere entrato in casa, di aver trovato due rapinatori che poi erano gli assassini che lo avevano rinchiuso nel bagno, poi lui aveva dato l'allarme, si era trovato il cadavere. Quella versione lì non stava assolutamente in piedi, lui ad esempio era stato imbavagliato ma non gli avevano neppure legato le mani per cui si era potuto liberare subito, ma c'era tutta una serie lunghissima di elementi che facessero e che fanno tuttora ritenere che le cose non siano andate così. Poi su come siano andate realmente questo è un altro discorso, però che le cose non fossero esattamente come ha detto lui, direi che è indimostrabile il contrario, cioè io sfido pubblicamente chiunque a dirmi che quella versione è una versione credibile ed è da lì che bisogna partire per cercare di capire, cioè se lui ha detto questo e non era vero, perché lo ha fatto? Cosa è successo realmente? E lì si apre tutta una serie di ventaglio di ipotesi, però quella macchia sullo stipite dell'antibagno dove lui dice di essere stato rinchiuso, che è una macchia che si perde nei fascicoli processuali del 69, cioè di 35 anni fa, adesso sarebbe una macchia da DNA. Se era sangue della vittima è un conto, cosa ci faceva lì? Se era sangue di lui era più banale perché poteva essere che lui fosse stato. Però perché doveva essersi sporcato di sangue del suo sangue se era stato semplicemente spinto nel bagno? Cioè le cose cambiavano. Per concludere, in America le prove le tengono. C'hanno ancora la pistola di Sacco e Vanzetti, che adesso lo danno in televisione, e hanno rifatto l'esame del controllo di quest'arma almeno 5 volte, e ogni volta è stato confermato che la valutazione iniziale era giusta. Quando hanno scoperto il DNA, queste metodiche del DNA, un sacco di gente sono uscita dal carcere perché c'erano ancora tutte le prove negli archivi e hanno potuto rifare le analisi. Noi, dopo finito il processo, lo buttiamo via, anche se quindi non c'è, una volta chiuso il processo non c'è più niente da fare. Mi ricordo che, caso strano, io e il dottor Martini abbiamo conservato ogni tanto i reperti degli attentati dell'Alto Adige, proprio perché, essendo ripetitivi, abbiamo detto conserviamoli perché può darsi che rinasca la necessità di fare dei raffronti. Ma se no, in Italia venga buttate via. Per cui, una volta che uno è stato condannato, anche se è innocente, non c'è più modo di dimostrarlo. Adesso, cioè, diciamo, a suo tempo sulla scena del delitto si prendevano le impronte, insomma, con i metodi che più o meno poi non sono cambiati in maniera clamorosa. Però chiaramente la ricerca del DNA, delle posizioni dei corpi, eventuali segni di trascinamento, tutte queste cose, soprattutto l'inquinamento della scena del delitto, cioè i viavai di 30 persone adesso non dovrebbe più esserci. C'era stata la famosa questione, l'elemento chiave di questo giallo era quello della chiave del bagno, nel senso che praticamente il professor Giatti, non il notaio, perché chi non ricorda il caso fa confusione, aveva detto che era stato chiuso nel bagno. E la polizia, non credendo a questa sua versione, all'inizio si pensò a un delitto passionale, cioè che fosse stato lui ad uccidere. Poi si pensò che questi rapinatori non ci fossero, tutta una serie di altre teorie. Però sostanzialmente lui aveva detto che era stato rinchiuso dall'interno, cioè che era stato buttato nel bagno, i rapinatori lo avevano chiuso a chiave e poi se ne erano andati. La chiave del bagno non era nella toppa e già questo è un elemento un po' strano perché i rapinatori barra assassini perché avrebbero dovuto portarsi via la chiave del bagno, la lasciavano lì, non succedeva niente, però non è stata trovata. Allora il sospetto era che lui si fosse chiuso da solo nel bagno, cioè che avesse simulato l'aggressione di questi due personaggi mai esistiti. Chiaramente lì, allora nel momento in cui è nel bagno, dove finisce la chiave? Se la tiene in tasca, non si sa perché. Dagli atti non risulta neanche che lui sia stato mai perquisito, nel senso che lui era testimone indiretto di un delitto, quindi magari se l'aveva pure in tasca la chiave, faccio per dire. E vennero smontati i sifoni perché l'ipotesi era che lui la chiave l'avesse buttata giù dal gabinetto o dal lavandino. E chiaramente fosse stata trovata la chiave lì, sarebbe stato difficile per lui spiegare cosa ci faceva. E questo non c'entra niente col 69 o col 2005. Diciamo che le tecniche sono cambiate, però sostanzialmente, su questo sono assolutamente d'accordo col dottor Mori, una dose di robusto scetticismo nei confronti comunque delle prove scientifiche e il sano fiuto del vecchio investigatore ancora fa la Perché quello si differenza. casca poi molto lontano. Cioè, i film, ricordatevi che nei romanzi gialli sono tutte vicende strane, nei filmetti televisivi sono tutte cose stranissime, nella realtà, appunto, di solito il giro di persone sospettabili è 3, 4, 5 o poco di più. Ecco, io volevo concludere proprio su questo, dicendo che anche la mia esperienza è questa. Noi tendiamo a complicare le cose, in genere a soluzione effettuata si scopre che sono molto più banali. E un po' ci dispiace, perché complicare le cose, tutto sommato, è uno sforzo mentale che facciamo perché riteniamo così, intanto che il male sia sempre lontano da noi, mentre molto spesso è molto più vicino di quanto pensiamo. In realtà la maggior parte dei casi risolti che poi trovano una soluzione dimostra che in effetti se non è la cerchia familiare è comunque qualcosa di molto più vicino e che i massimi sistemi, le ipotesi stranissime o comunque le soluzioni facili, cioè la banda di albanesi su Erika e Omar, poi alla fine sono anche accomodanti, per cui è più bello, è più rassicurante per noi trovare una soluzione che tutto sommato non è semplice. Quando invece la maggior parte dei delitti, proprio perché avviene per motivi come gelosia, vendetta, rancore, motivi economici, eccetera, maturano nell'ambiente che si frequenta e quindi è sempre, diciamo così, sospettare l'ambiente immediatamente vicino in genere non è mai un errore concettuale. Grazie.